주란 이름 대내로 리도 디소데 나기 디밀레 바로레 오라 곁에 che mi sei piaciuta senza fare niente ora che ho te amo l'altra gente giorni passati a dividere il cielo dal mare prendere la rincorsa per volare ora che ho te passata nei miei occhi entrata dentro il cuore ora che ho te fra me il mio dolore giorni per come due stelle cadenti un minuto baci pieni di tempo perduto ora che ho te in qualche parte del mio corpo a farmi male ora che ho te non è più uguale ora che scrivo il tuo nome anche sull'acqua e non so com'è ora che ho te sarò più io perché ogni incontro è già un addio quando non ci sarò più io che ora